Dialogo 39. Raccontò Anas. Disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, rivolgendosi ad Abu Dhar: «O Abu Dhar, vuoi che ti dica quali sono quei due aspetti della personalità che hanno poco peso sulla spalla ma molto peso sulla bilancia nel giorno del giudizio?» Abu Dhar rispose: «Certamente». Allora l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: «La lunghezza del silenzio e la buona condotta, per colui nelle cui mani è l'anima mia, non c'è nulla che sia paragonabile a queste due cose».